mai scendato, dici. Taglia bene poi, solo che c'è la batteria scarica, c'è una batteria, adesso infatti la sto guardando, se ne ha, perché è molto comodo quando c'è la barba, capito, corta, solo che lo devi attaccare alla corrente ogni volta per usarlo, perché la batteria dura fino a 10 secondi. Ce l'avevo anch'io di mio socio, ce l'hanno fatto. Quelli sono quelli che la ricarichi, come quella dei capelli che ho, e poi la usci, ma anche tu gavo in mezzo alle balle, una scocciatura. No, già ce li ho quelle, tra, ce l'ho, ti mando la foto, c'è sia quello dei capelli a batteria che quello per la barba. Però questa era di mio padre, ma è solo questione di batteria, capito? Infatti è tutta un po' ossidata, basta sostituirla o pulire, ma credo sia la batteria, perché io credo che questa abbia più di 20 anni, se non di più. È un Philips Shave, mi pare. Philips Shave 4846, c'è anche il tagliabasette. Ma qual è quello fatto in una maniera strana? Cos'è, nero o rosso? Diciamo che è un rosso un po'... Aspetta, ti mando la foto. Se è quello rosso della Philips è uguale a quello che ho io. Non l'ho buttato dentro l'armadio. Lo tengo come ricordo, ma non carregheggia più nemmeno. Ti ho mandato la foto. È nuovo. C'ho la scatola e tutto. Su spazzolino. E infatti poi scortaglia benissimo. C'ha tre dischi, tre lame, dai. Adesso ricambio la batteria, ma non lo so se ne ho di queste. Credo sia da 1,5. Che più moderno. Il mio è fatto a L, capito? Questo è molto più moderno. Il mio è più vecchio ancora. Molto più moderno questo. Non è un po' più vecchio. C'è un po' di ossido nella batteria, adesso provo a pulirla, ma io credo che ormai è la batteria che non tenga più la carica. E anche il mio così. Si conferma, si conferma. Così è ste. No, è da buttare secondo me questa batteria. Ma poi da dove è attaccata? Saldata proprio con le lamelle direttamente alla batteria di precisione. Cazzo, va, devo va piano piano. Soltanto un mio che... Vado a farla. Non so se è la lampadina del corridoio che devo cambiare. Ma fai ora già devo andare a giocare le lampadine del solare. Cazzo, non mi si è bruciato ancora mancuna. Di balle che la palizzo, adesso ne metto un'altra, vediamo. Io so, ne ho messo una a 30 e una a 20 watt, ma tocca abbassarle la luminosità perché si illumina a giorno, cazzo. E allora col telecomando di quello delle strisce LED, abbasso l'intensità, poi ne ho una da 30 watt nell'andito, due da 20 in camera, un'altra da 20 in cameretta, poi ho fatto il terrazzo, insomma sono spettacolari perché sono a LED, fanno una luce allucinante. Adesso la metto anch'io, già ce l'ho a LED, spero che prendo la scala. Io. E mi ha chiamato la batteria. alcuni microfoni, però il turner è turner, non c'è niente da fare. Mio non ne ha messo uno, quello turner più 3B nero su Facebook, 40 euro. Ma chi sono? L'avevo tenuto 10 anni. No, a me non mi interessa. Ne ho anche un altro che mi devono dare, quindi già va bene questo che c'ho. Va benissimo questo, e poi vabbè, userò anche l'altro per quando arriva, ma non la ci pagato 40 euro, ci pagato 70, non 40. E così è, che cosa vuoi ti dica? Va bene. Ma se mi metti avvicini con le cuffie è terribile questo microfono. Va bene. E beh, messo là il coso. Ma spesso cercano questo tipo di batteria. Ah, no. Non l'hai trovato ancora. Fai, già sono qua io, tanto sto facendo cosa. Graieste, così è. Sta cambiando batteria dove? No, questo tipo di batteria la sto cercando su internet, perché è una batteria, non c'è scritto quante volte, capito, sembra una classica 1,5. Ah, capito. Ascolta, la voce è sempre uguale con questo, così? Sì. Bella, no? Chiara, forte. Ora, 1, 2, 3, prova radio. Così, 1, 2, 3, prova. Già va bene anche così, dai, c'è problema. Ha voglia che va bene, ci ha pagato. Ok, 9:40, solo la radio sta andando, non c'è niente da fare, dice che ristacchiamo il bip. Quando ho sollevato l'antenna i segnali vanno bene, poi cavo e c'è un impianto favoloso, ho fatto regola d'arte, va bene. Dai, vi lascio due minuti che sto rientrando adesso, che mi cambio e poi già riprendo. Ok, dai, dopo mi dici cosa hai combinato per salire velocità. Cosa ho combinato? Niente, Dani. Ho praticamente tirato sull'antenna dove c'erano le direttive, ho messo la Mantova e ho sfruttato tutta la qualificazione, che è molto buona, sia staff sia tubo. Il cavo è sempre l'H1000, unica discesa. L'impianto ho fatto regolare anche internamente, quadro elettrico per attaccare le radio, salvavita, insomma, tutto fatto bene, dai. Tanto là non c'ho più niente, solo baracchini c'ho, quindi devo curarmi questi cazzo di baracchini adesso. Bella mossa. No, già stai uscendo molto bene, anche bello forte, sì. Meglio così, dai. No, sono contentissimo di questa radio. Contentissimo, infatti priorità assoluta, K non li ho più, ho venduto i 240 che avevo, il 430 è al centro assistenza, lo sto facendo revisionare, ma anche quello, se ho una buona offerta, perché lo sto facendo revisionare, quindi l'ho garantito come tutte le altre, anche quello partirà, solo baracchino Dani. Aspettiamo il tempo buono a sganciare quel di Polo Grande e togliere quelle due antenne piccoline VU, così non ci è rimasto più niente. Però vedi, ieri si poteva fare, c'era caldo, ma c'era un bel vento di scirocco, quindi non mi sono fidato. Se invece fa una giornata che non piove, che non c'è vento, salgo un paio d'ore, faccio un po' di altra pulizia e così rimane solo la Mantova e basta. E anche io ieri non ho fatto niente, mi dovevo piazzare la 510 e non me lo sono fidata, perché c'era appena di vento e avevo paura che mi spostava le staffe, perché le voglio resinare questa volta le staffe, le voglio mettere il tacello chimico e non mi sono fidato. Ossia che me l'hai sposta e devo rifare tutto da capo. No, Dani, quando devi staffare, soprattutto col chimico, non ci deve essere vento, perché la staffa deve asciugare, devi mettere il palo in mezzo per tenerle ferme, per la centratura, e viene un bel lavoro, però vuole fatto quando non c'è vento, se ti sposta tutto e poi ti viene la qualificazione e tutta va ridotta. No, beh, io dovevo a forbice, mio nonno che ci mette molto, capito? Dovevo sganciare le fascette con la forbice, buttare a terra di polo, poi pali di testata, quelli sono telescopici, quindi li abbasso, li sgancio e li metto in massata. Ci voleva ben poco, ma c'era troppo vento. Mentre invece le altre due antenne piccoline, quelle, vabbè, ci vuole un po' più di tempo, ma un paio d'ore ho fatto tutto. Adesso se la prossima settimana fa tempo bello, una mattinata mi mettono e tolgo tutto e lascio solo la Mantova e basta. Anche se ci sono, quelle antenne non stanno funzionando perché la radio non ne ho più, perciò è tutto bene, sì. Sì, a voglia. Che volevo sistemare un pochino la 510, ma no, quando c'è così vento non mi fido. Anche se sono passo io, non ho rischio di farmi male se cado. Però il vento, come dici tu, mi sposta la staffa e si andrà a canto per i fatti suoi. Poi te lo faccio quando non c'è vento, che ci sta bene, che è una giornata un po' più calda, almeno il tassello chimico asciuga bene. Sì, dai, ti consiglio di fare così. Non fare questi lavori quando c'è vento, soprattutto quando usi il chimico, perché poi quando metti la staffa, una sopra col chimico, e poi le metti il tubo per centrare bene e tenerla ferma, non ci deve essere vento, non devi muoverlo, perché se lo muovi poi ti viene il tubo storto e una volta che il chimico è asciutto hai di fasciare un muro, Capito? Quindi abbi un po' di pazienza e via. Capito, tutto qua. Io avevo già fortunatamente tolto tutta la parte grossa, adesso mi rimangono due fesserie e basta, Dani, capito? E lascio solo la Mantova. Magari posso sfruttare ancora, perché ho ancora altri 2,5 metri da tirare su, ma non non so se la tiro tutta la verità, magari la tiro tutta su e le metto un qualche tirantino così, giusto per, ma il paro che c'è è micidiale, era il sistema vecchio che aveva Fabrizio, quindi l'avevo comprato da lui, è favoloso quel sistema, capite? Bene, bene, dai, sono qua comunque, Dani, devi fare qualche prova? No, sono entrato, pensavo che ci fosse propagazione, invece non v'è nulla. Proprio silenzio radio in totale, 27. Se no che provo in banda laterale a vedere se c'è qualcuno, a vedere se spinge qualcosa. No, ma col tempo che sta facendo, propagazione chiusa, ma ho visto anche... ieri c'era sì qualcosa, 27 nei canali alti, ma se no no, troppo del tempo, vabbè, altre radio no, non ne ho accesse, quindi non immagino nulla, perciò sono fuori dal mondo, va bene così, sono cose che ho deciso io. Vediamo un po' Franco se ha cambiato antenna. Franco, poi mi dici se nei radio mi ascolti bene, perché sto usando il tano più 3B, da lì. Franco, il segnale è aumentato, sei Santiago 5-6, la radio va bene, però ti porti appresso un rumore. No, no, no, non è il rumore di vento, è il rumore di alternata. No, se metti la mano non c'è. C'è il rumore di alternata, fra. Prova a mettere la mano sul microfono, a ver se lo fa, se no manca massa. No, ancora di più, Rovazzi. No, fra, non ci siamo. Rumore di alternata. Controlla bene i cavi, controllate bene tutto, perché questi rumori sono rientri di RF causati dal malfunzionamento dell'impianto. Non si discute, perché è così e basta, è inutile che andiamo a cincischiare, non venuta la va. Ho letto da lì, va bene anche la radio, simile, ma ho letto che è molto forte, simile sempre alla mia modulazione, col tano più 3. Sì, Cran, te l'ho detto, bella forte anche la voce, bella, sembra roba amplificata, bella spinta. Roba professionale, dai, invece un tano più 3 col Galaxy Saturn. Vabbè, sono contento, tanto sto usando sempre questa, non è che cambio. No, lascia questa che si sente bene, bella forte, sì. Però ho capito perché quando parla Franco mi parte basso basso e poi va a aumentare la voce. Anche a me mi fa così, non so cosa combinati, cosa vuoi dire. Eia, sempre il rumore di alternata c'hai, fra. Non può essere a posto, fra, non ti devo insegnare io a fare le cose. C'è qualcosa che non va. È quello, un rientro da qualcosa che ti sta rientrando, un rumore fortissimo di alternata. Ma non è che per caso c'è il motore acceso, no? Se gli manca il filtro... quello per non rientrare l'RF in radio. Eia, adesso no, adesso hai fatto un mezzo passaggio che non c'era, cos'hai toccato? Adesso va un po' meglio, comunque c'è sempre sotto, fra. No, adesso no. No, adesso va bene. Quasi 7, sì. Eia, adesso va meglio, lo fa con quell'antenna, con l'altra antenna di 2, 3. Qua sì, quasi 7. Adesso va bene. Avanti, da lì. In che zona sta modulando, fra? Franco, in che zona stai modulando? Poi io lo prendo a 9, fra. A 9, 8, 9, 8, 9. Sì, beh, più aperto per te, per me è più coperto, già lo so dove abitiamo. Per la zona tua è più aperto, ho capito dove lui. Franco, non ho capito perché, quando inizio a parlare passo passo e poi vuoi aumentare il volume. Strano, eh. No, no, qua non lo fa, da lì, ma noi c'è qualcosa tu, no, che si sale fare il volume da solo, qua è stabile, la radio è 4, 5, non gliel'avrò, Santiago 7. Strano, perché poco fa l'ultimo passaggio che ha fatto è partito bene, ogni tanto lo fa questo problema. Potrebbe essere se c'è la batteria scarica, sai, a primo impatto quando carichi dà tutto il voltaggio e poi inizia a calare e ti si abbassa anche la radio, ma in questo caso lui le stai aumentando di radio, non le stai abbassando, quindi non capisco, da me non lo sta facendo. passi dal giorno alla notte. Da 7 a 9 è abbondante, la radio aumenta un bel. Ma stai innescando però. E l'alimentatore si dobbiamo fare. Chi c'è l'alimentatore? No, non ce la fa l'alimentatore sicuramente, fra ragione Mattalino. Ciao Mattalino, buongiorno. Perché ti mangia la modulazione, capito? C'è proprio un abbassamento di tensione sulla parte dell'alimentazione, fra 10 ampere sicuramente è poco. Se stai andando col 747 e il baracchino tutto alimentato con un alimentatore non ce la fa. Ho capito, però vedi, ti porti appresso un rumore di alternata, poc'anzi sei calato. Non va bene, fra, l'impianto, non va bene, c'è qualcosa che non va bene. Controlla meglio. Avanti Natali, c'è Danilo anche, riprendi. E ciao anche a Danilo, là. No, io vi ascolto, là, no, che devo fare cosa qua, sto preparando per il pranzo. E ciao Natali. Ehi, dai, non mi sono accorto il numero 20. Dai, Danilo, ti saluto anch'io, ci sentiamo magari dopo, ragazzi, dai. Fra, ti saluto, un abbraccio, ciao anche a Natalino, ciao Danilo. Mi allontano ai fornelli anch'io, dai. Ciao. Ok, grazie, ci sentiamo più tardi. Ciao, Claudio. Ciao a tutti, a più tardi. Ciao, Claudio, ciao. Ciao Marco, buongiorno anche a te, buona domenica. Dai, ci sentiamo dopo, che è già l'una meno 20. Devo organizzare qua, se no si pappa. Ciao. K, chi è? Avanti. Sì Franco, ciao. Allora, 9 più 5 e non hai quei rumori appresso. Ma prima era deleterio, anche quando hai staccato c'aveva un'alternata che non finiva più. Sì, confermo. 9,5 abbondante, aggiungo. E 9,5 pieno, a metà tra il 9,5 e 9,10. Taliccio, se mi pare tipo 8, prova un po'. Liscio, me lo fai vedere? Sì, allora, da 8 e mezzo modulato, circa 8 e mezzo modulato a 9,5 abbondante e attaccato. Quindi c'è una netta differenza, dai. L'altro chi era? È buona la modulazione, sì, a meno che fra, ma tu in antennino sei, non è che hai qualche rientro di RF che te lo fa solo con l'amplificato, no? Non si riesce a organizzare un'antenna esterna lì. Cos'è quello, tetto o terrazzo? Ma lì c'è l'accesso oppure bisogna pigliare scala aerea, tutta quella roba lì? Sì, perché poi ci sarà una differenza abissale il segnale. Tu sei grosso modo dove è Luca del Monte più o meno, no? E io voglia, allora aumenterà parecchio. Natalino, stai cucinando? C'è una bella modulazione per Natalino, poc'anzi, tutti andranno a mangiare, io mi gioco bisogno di, non dico adesso, ma ci ho pigliato il caffè poco fa, purtroppo io ho il ciclo del sonno spostato, e quindi va bene fra, ci sentiamo alle prossime, quando capita, tranne poco che non aggiungano proprio, non ho più voglia, mi sto dedicando ad altre cose. iniziato mentre a salutare, ti poggi e poi chiudo, poi faccio altro. Ok, ci sentiamo fra. Quindi col mic normale va bene. Con l'altro ti faceva un disturbo strano. Quando attaccavi era una specie di... cosa? Non te lo so spiegare, dai. No, io non devo mangiare, Marco, devo solo preparare, capito? Sì, anche qua fra la stessa cosa. Vabbè, deve essere andato a fare, dai. Ok, ci sentiamo dopo, Marco, lì, che mi allontano, comunque sono qua, dai, non c'è problema. Eia, da domani siamo a piede libero, giusto? Sì, a piede libero, Dio. Piede libero è quando siamo tutti liberi. Per il momento non siamo a piede libero, sempre in zona gialla, quindi dobbiamo cercare di capire e di fare le cose fatte bene, altro non si può fare. Adesso te, non so se hai visto ieri su TGcom, no, telegiornale, hanno fatto vedere a Napoli, si è riversata una quantità impressionante di gente nelle strade, un carnaio sembrava, questi non hanno capito una minchia. Se questi continuano, anche se hanno le mascherine, ma si riversano in strada, erano gomito a gomito, una marea di gente. Qua ricominciamo punto a capo di nuovo, zona arancione, zona rossa. E oia. Guarda, io alla Lombardia le do, cosa ti posso dire, forse neanche un mese, e vedrai che vanno direttamente in zona rossa, soprattutto a Milano. Lascia aperto. Va bene, dai, vado ai fornelli, già ci aggiorniamo più tardi. Ciao ragazzi. Eia, ciao, ciao, buona giornata. Ciao Natalino, se sei all'ascolto, ciao. Dinamite. Oh, tu guarda adesso il segnale 1, 2, 3, 4, 5. Sì, più su per giù se sembra lo stesso. E vabbè, ma non mi interessa il segnale, mi interessa che la radio sia pulita, il segnale ho capito cosa c'è, dai. La radio adesso va, ma adesso c'è liscio, Bella forte. Esatto, mi interessa la radio, ok, dai. Riprendi che sto scendendo a c'è a pranzo da mia sorella che non si sta, se sono qua a ripare di voi. Dai, ci sentiamo stasera. Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao anche gli amici che sono a scuola. Per me si è ripida stasera, ciao ciao. Ciao ciao Fra, ciao, ci sentiamo. Chiamo Cap Antonio, capo capa, se mi senti dall'isola di Siracusa. Ehi, a che via ti sento? Ehi, adesso mi sono spostato, sono qua in provincia di Milano, capa. Antonio, prende Bacchelite, capo cacciato 55. Antonio, Sacciatore, i BL, scegli tutto, Sacciatore, il sottofatto e lui. Il problema non è che è troppo grosso, è troppo vini, ma è il suo gozzo. Ecco, forse hai bigliato i BL per 213. Ma quasi zendi. Ah, fine, le leggi. Capito questi 6 metri di filo, ma perché così corta c'è questa antenna? Sei una taruga bumeo! Che hai in terra per questa antenna, brucchi. Cioè, se dall'antenna del tuo caso in totale 6 metri di filo, cazzo, tu, e ne vedrai sopra i deuri, brucchi, l'antenna. Ma cosa sopra i deuri? È vicino, è qua. Cioè, qua c'è il baracchino e su c'è l'antenna. Chi è, che beh. Ciao, ci sentiamo più tardi. Ehi, si che andrà la tallo usoggo, ma me ne fendi guarda la mazza, cioè, è più fini. A vita? Abitare a vita è perfetto, ma mi sembra un po'... Magari quando lo saldo poi va bene. Controlla col tesser, quando l'hai saldato, sei tutto a posto. Ok, là, adesso mi appento. E io ciao più tardi. Guarda, ti ho mandato un messaggio su WhatsApp. Ma è lui? No, Antonio. Ah, dai, io sono in cucina, mi sto ascoltando, già ci sentiamo dopo. Arrivi duro dai nocchi. E io ciao più tardi. A me, ciu ciu ciu. Avanti, già ciao ciao. Ciu ciu ciu ciu ciu ciu. Vabbè, e allora? E beh, Antonio. Chiappa, chi sei, cosa sei? Bah, adesso non mi viene il nome. Manuele. Ehi, Emanuele, buonasera. Bene, ti arrivo. Sta salvaglia. Come che sei qua? La radio Super 5. Chiappa, Emanuele, sono un po' che non ti intengo. Come va? Sto bene? Sì, sì, come posso lamentare, dai. A parte un po' di dolorini dove sono punti, però sto meglio, dai, meglio di prima. Meno male, dai, sono contento. Io mi prenderò d'essere a fare sciagogia. Cos'è? Mi sto facendo il capo nuovo. Di difesa? Via. Perché cos'è? Ammazza, No, no, no. Ah? Allora, no, io sto dando con l'antenna lì, la mia, guarda che interessa, 60 euro sto dando, la frusta, 8 metri di antenna. Perché? Sì, da qua sto andando via, sto smontando tutto. Dove vai? E da un'altra parte, solo che là non posso metterla con l'antenna, se no me l'avrei portata via. E beh, non c'è modo per metterla. No, no, assolutamente, Antu, niente, non c'è modo per mettere l'antenna lì. Poi sul tetto non si può salire, perché sono quei tetti lamiera. Meglio bene, vieni a salire. No, no, sono in pendenza, sono, scusami, sono in pendenza, sono in piano. Vabbè, ma già si può azzaia. Cioè, si vive un po' di pazienza. No, no, per salire no, assolutamente, niente da fare. E vabbè, tutto si può avere nella vita, Ma cosa, non sei ben, Kibi? Ah, sì, ma... Siamo là per avere un altro... per fare... per ti spiego, dai. Scappa. Vabbè, vedi tu cosa fare. E tu non mi ascolti perché? Fortissimo sei qua. Andare, dai. Andiamo bene, bene. Ok, vabbè, siamo vicini, dai. Noi siamo abbastanza lontani. Io c'è oltre 9.20 qua, sì. Io come ti arrivo lì alla torre? Vabbè, senso. 1, 2, 3, prova. 9.40. Va bene. A voi, che sono andato. Ti sono risalito, perché come ti sei notti. Gabba, gabba. Va benissimo, va. Non c'è nessuno qua. Ho detto che non è entrato nessuno. Insomma, come ti devo fare su Dexter? Mi serve, perché non lo conosco molto bene, l'ho giubilato da poco. Mi serve il coso sonorico. Adesso provo a vedere se è questo. Per misurare. A misurare, che ti affessai? Che rosmetro sai? No, non è il rosmetro. È il, come si chiama, lo Dexter. E dove cazzo fa a misurare il test? Ma non devo misurare stazionaria, devo misurare la continuità. Ah, la calata del capo. Ovvero ce l'ho fatto giusto. Che cazzo, basta che sia andato per il BL tutto quanto, cosa avevo lo Dexter? Senti, l'ho trovato. Sì. Ma i foto devi fare bene i cosi, no? Cosa, non le devi fare male, devi farli bene, se no non va bene, capito? E cosa, se devi fare male, va bene, male, va a cazzo il gabbio. La caratteristica di difesa devi guardare di PL, se sono fatti bene, saldati e tutto il rischio. Gabba, avanti, io la su gabbo e mi giuro. Vabbè, dai, mi assento, Arturo, dai, casomai ci sentiamo più tardi. Eia, ma come disagio, e vamo a schettare, sul baghettaggio mi saldo bene. Eia, ok, buon lavoro, allora, a più tardi. Eia.